sacrilegio il legio, ecco in costei. Ed in costei ben giusto che di vinici astrea cadan le pene. Sento, voi mezze l'indomato me. Dimora anch'essa. Arfino, accenevi. Tacqui abbastanza, ormai la sentenza fatal, dica si un duce. Via giusto. No, prorregge impronto, ormai popoli qui raccolti. Udite, udite, ma che fia l'indio i traditore puniti.